notte. Le notizie in 60 minuti. Le 21:03 minuti, una buona serata dalla redazione. Dan, Rita D'Ambrosio, grazie innanzitutto a Cristian Goldoni e Mariella Roberto in redazione, Roberta Frisani in regia. Un'ora insieme per ripercorrere i principali fatti di oggi. Partiamo allora dai titoli. In primo piano ci sono le pensioni, ok al rimborso dal Consiglio dei Ministri, 3,7 milioni di pensionati avranno una parte del rimborso, una tantum. Renzi, rimediamo agli errori altrui, l'operazione costerà nel complesso 2,2 miliardi. E poi c'è la questione dei migranti, dall'Unione Europea via libera alle missioni antiscafisti, all'Italia comando e quartier generale. Per le quote invece non c'è intesa, Parigi frena, Madrid chiede una revisione. Le elezioni regionali, torna a parlare Berlusconi che annuncia sono fuori dalla politica dei professionisti. Il Papa ai vescovi, non siate timidi nel denunciare la corruzione. E poi c'è il calcio, il derby della Roma che è stato posticipato a lunedì alle 18. Stasera intanto si chiude la 36esima in Serie A con Napoli Cesena, Fiorentina Parma invece finita 3-0. Allora partiamo con le principali notizie, con un'ultima ora. È Gianni Armani, il nuovo presidente ed amministratore delegato di ANAS, prende il posto di Pietro Ciucci alla guida della società controllata al 100% dal Tesoro. Armani è attualmente l'amministratore delegato di Terna Rete Italia. Il nuovo consiglio di amministrazione sarà composto da soli 3 membri. Oltre ad Armani ci saranno anche l'ingegnere Cristiana Alicata e l'architetto Francesca Moraci. In primo piano, come detto, ci sono le pensioni, è stato approvato il decreto in Consiglio dei Ministri, ma non mancano le critiche. Palazzo Chigi mette di fatto la parola fine al nodo pensioni aperto dalla sentenza della Consulta. Il decreto approvato dal governo prevede infatti un rimborso che è un una tantum, che scatterà ad agosto e che varia a seconda dell'importo delle pensioni. Quanto alle risorse, queste vengono dal tesoretto di oltre 2 miliardi. Non si poteva restituire tutto a tutti e chi lo chiede è ridicolo, spiega il presidente del Consiglio Renzi. Non abbiamo voluto fare le corse per evitare di sentirci dire lo fa per la campagna elettorale. No, la follia. Cioè, noi abbiamo avuto, credo, il coraggio e la determinazione di presentare la nostra proposta subito, perché vogliamo dare un messaggio forte ai nostri partner europei che in Italia non si scherza e non si gioca sulle pensioni. Opposizioni e sindacati all'attacco però del provvedimento varato dal governo. Le prime annunciano una serie di ricorsi. CGIL e CISL e UIL giudicano inadeguata ed insufficiente la risposta dell'esecutivo. Il decreto, dicono dalla CISL, restituisce in media solo un sesto degli importi complessivamente dovuti. Le decisioni del Tesoro, aggiungono dalla UIL, non rispondono a nessuna delle indicazioni contenute nella sentenza della Consulta. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Sentiamo chi beneficerà del bonus e come verrà scaglionato. Avvantaggerà le pensioni più basse il bonus previsto dal decreto varato dal Consiglio dei Ministri il 1 agosto, stando agli esempi fatti dallo stesso Renzi. Per i pensionati che prendono 1.700 euro lordi al mese, l'una tantum sarà di 750 euro, 450 invece per gli assegni da 2.200 euro, 278 per quelli da 2.700 euro al mese, mentre non avranno il bonus i 650.000 pensionati che prendono più di 3.200 euro lordi. A partire dal 2016 lo stesso principio verrà utilizzato anche per la rivalutazione delle pensioni, così ad esempio chi prende un assegno da 1.700 euro lordi avrà una rivalutazione di 180 euro all'anno, che scendono a 66 per quelle da 2.700 euro. Il nuovo meccanismo di indicizzazione sarà più generoso di quello precedente e rispetterà le indicazioni della Consulta, assicura il ministro dell'Economia Padoan. Questo significa che l'aumento di reddito tramite pensioni diventa un aumento permanente in base all'introduzione di un meccanismo di indicizzazione. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Sul decreto pensioni l'opposizione attacca il governo e Berlusconi ipotizza addirittura un suo ritiro. Si dice fuori dalla politica, ma le regionali si avvicinano e Silvio Berlusconi non manca di mandare una stoccata al governo, soprattutto sull'impasse delle pensioni. Resto per senso di responsabilità nei confronti del mio paese, dice l'ex cavaliere. Che sia assolutamente inaccettabile, la sentenza della Consulta è stata chiara, bisogna restituire a tutti i pensionati quello che a loro è stato tolto e che la Corte ha giudicato non corretto. Non tutto fila liscio, però. Un uomo viene bloccato dalle forze dell'ordine in occasione del comizio per scegliere il sindaco di Saronno. Alle aggressioni invece sembra ormai abituato il leader della Lega Matteo Salvini, che è convinto di vincere la tornata delle regionali. Non abbiamo paura, non ci fanno paura i lanciatori di sassi, di fumogene, di arance, vengono denunciati perché quelli non sono antagonisti, sono dei delinquenti, ma la gente ha voglia di cambiamento. Il Movimento 5 Stelle si mobilita a Montecitorio contro un possibile decreto sulle banche. Alessio Villarosa. Chiediamo che non venga mai istituita questa bad bank, perché non vogliamo che i crediti deteriorati dei privati o delle multinazionali o dei partiti vengano pagati dai cittadini che non c'entrano niente con questi debiti. Sulle pensioni infine interviene anche SEL. Per Nichi Vendola è un'operazione spericolata e propagandistica. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E poi c'è la scuola. L'aula della Camera ha approvato l'articolo del DDL sulla riforma che attribuisce ai presidi il potere di chiamata diretta dei docenti dei propri istituti, il cuore di questa riforma. I voti a favore sono stati 214, no 100 e gli astenuti 11. Adesso è in corso una seduta notturna. In primo piano anche le risposte dell'Europa sui migranti, via libera alla missione navale per distruggere il modello di business dei contrabbandieri e delle reti di trafficanti nel Mediterraneo. È un primo passo, il punto non è distruggere le barche, ma distruggere le organizzazioni dei trafficanti, ha detto l'alto rappresentante europeo Federica Mogherini. Sentiamo. La prima fase riguarda la condivisione di informazioni, la ricerca e condivisione di informazioni ed intelligence, che sarà di per sé, io credo, già un elemento di deterrenza e un elemento fondamentale per passare alle successive fasi. C'è poi una seconda fase di, diciamo così, blocco e ispezione dei barconi. C'è una terza fase che riguarda il rendere non utilizzabili i barconi. Un primo passo importante anche secondo il nostro ministro Gentiloni. Nulla è dato per acquisito e per scontato e i diversi capitoli sono oggetto di confronto e di discussione, anche non semplice, di volta in volta. Oggi di positivo c'è comunque la decisione che riguarda la istituzione della missione di difesa e sicurezza. Lo avete sentito nei titoli. Papa Francesco ha aperto la 68esima assemblea delle CEI con un appello ai vescovi: non siate timidi nel denunciare la corruzione. La sensibilità ecclesiale, che comporta anche di non essere timidi o irrilevanti nello sconfessare e nello sconfiggere una diffusa mentalità di corruzione pubblica e privata, che è riuscita a impoverire senza alcuna vergogna famiglie, pensionati, onesti lavoratori, comunità cristiane, scartando i giovani, sistematicamente privati di ogni speranza sul loro futuro e soprattutto emarginando i deboli e i bisognosi. Arresto convalidato a Palermo per l'uomo che domenica ha travolto ed ucciso una giovane donna. Si riapre anche il dibattito sul reato di omicidio stradale. Ci devono essere delle pene esemplari. Tutte le mattine in questo tratto di strada rischiamo la vita. I fiori sull'asfalto, la rabbia sul viso degli amici. Mentre in Viale Libertà i colleghi ricordavano Tania, uccisa a 30 anni, l'uomo che l'ha investita veniva processato per direttissima e per lui il giudice ha convalidato l'arresto e disposto il carcere. Omicidio colposo ed omissione di soccorso, le accuse per Pietro Sclafani, 50enne, a cui già una volta era stata ritirata la patente e da ultimo sospesa, in teoria, per ripetuti casi di eccesso di velocità. Sono addolorato, ha fatto sapere il panettiere palermitano, che ha negato però l'assunzione di droghe. Era risultato positivo ad estasi ed anfetamine, ma gli esami vanno ripetuti perché contraddittori. Nelle stesse ore altri incidenti stradali riducevano in fin di vita un'anziana sempre a Palermo e una coppia ad Imperia ed amplificavano la voce di chi invoca l'introduzione del reato di omicidio stradale, come in questo caso chi guida a gran velocità e forse non lucido spesso l'ha già fatto e continuerà a farlo e per questo, ripetono i magistrati, serve una legge specifica che vada oltre quell'aggravante della guida in stato d'ebbrezza che di fatto ha già innalzato fino a 10 anni le pene, ma non ha avuto un effetto deterrente e sulle strade si continua a morire. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. Torneremo a parlare di incidenti stradali, di reato, di omicidio stradale più tardi. Ora siamo al calcio, via libera al posticipo del derby Lazio-Roma per lunedì alle 18. Il match era previsto per domenica alle 15. È passata dunque la linea della Lazio, che ha chiesto il posticipo per riposare un giorno in più dopo la finale di Coppa Italia in programma mercoledì contro la Juventus. E poi ci sono le partite di oggi. Una è già finita, l'altra si deve ancora giocare. Ci aggiorna in diretta il nostro Dario Ricci. Dario. Sì, buonasera Anna Rita. Facile successo della Fiorentina sul Parma, Firenze 3-0 con le reti di Rodriguez, Gilardino e Salah. Fiorentina che rimane finalmente in corsa per un posto in Europa, mentre il Napoli al 15° di gioco, anzi no, siamo al 13° al San Paolo, ancora sullo 0-0 con il Cesena. Grazie al nostro Dario Ricci, che torneremo a sentire anche più tardi sulla partita che si sta giocando. Chiudiamo con il Giro d'Italia. Oggi è giorno di riposo, ma si tracciano i primi bilanci, e sicuramente quello è positivo, e quello per il giovane Fabio Aru. Un giorno di riposo, il primo per rifiatare un pochino dopo 9 giorni di autentica battaglia, un giorno di riposo per ricevere la visita di moglie e fidanzate, ma gli uomini di classifica hanno anche l'obbligo di dover dire qualcosa ai giornalisti. Contador ha detto di stare molto meglio, la spalla non gli dà fastidio, lo preoccupa piuttosto quel grosso ematoma al ginocchio che è ancora un po' gonfio. Sincero. Aru è sereno, la sua conferenza stampa è meno baldanzosa del suo modo di correre. Sto bene, dice, la squadra è fortissima, il giro è ancora molto lungo e tutto può succedere. Prevedibile. Ricci porta il terzo incomodo che punta a diventare primo. Per il momento si è visto poco e si è sentito ancora meno. Quel poco che dice l'ha già detto. Mi vedrete da Valdobbiadene in poi. Comprensibile. Infine il quarto dei tre moschettieri, che non è al momento D'Artagnan, ma un Don Chisciotte livido e pesto. E Rigoberto Oran, che per il momento è staccatissimo. 2:10 dalla maglia rosa. Soffre di bronchite, ma dice che è pronto a soffrire. Tosto. Piero Augusto Stagi, Radio 24, Sole 24 Ore, Civitanova Marche. Adesso ci aggiorniamo su strade e autostrade. Restate con noi, dopo parliamo di pensioni. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Le 21:16, le pensioni, approvato il decreto, rimborsi fino a 750 euro, 650.000 gli esclusi. Il Fondo Monetario intanto rivede al rialzo le stime di crescita per l'Italia. Migranti, dall'Unione Europea via libera alla missione antiscafisti, all'Italia comando e quartier generale. Berlusconi parla in un comizio, dice, oramai sono fuori dalla politica. E poi c'è il calcio, il derby Lazio-Roma si giocherà lunedì prossimo alle 18, mercoledì la finale di Coppa Italia. Queste dunque le notizie principali di questa giornata, a partire, lo abbiamo detto, dalle pensioni. Avete sentito nei servizi del nostro notiziario le cose che sono cambiate. L'annuncio di Renzi c'era già stato nella giornata di ieri, ospite su Rai 1 di Giletti, ma adesso ci sono tante domande, adesso dopo il Consiglio dei Ministri, domande alle quali noi abbiamo chiesto, e lo ringraziamo, di rispondere al nostro Davide Colombo del Sole 24 Ore. Buonasera Davide. Buonasera a voi. Davide, allora, tante domande che ci poniamo in questo momento, soprattutto perché le reazioni, quantomeno quelle sindacali, sono state al momento negative. Sono arrivate quelle della CISL, quelle della UIL, risposta del governo insufficiente, restituzione, ha calcolato la CISL, di un sesto degli importi dovuti. Domani il Sole 24 Ore si occuperà diffusamente e risponderà a tante domande. Insomma, ti aspettavi queste reazioni sindacali? Ma diciamo che le reazioni non solo sindacali ma politiche in generale sono un po' scontate, naturalmente un po' sorprendono, perché la posizione di chi chiede un rimborso integrale, se presa sul serio, andrebbe anche supportata di un'adeguata copertura, perché un rimborso integrale avrebbe avuto un costo di 17,7 miliardi di euro netti tra il 2012 e il 2018, avrebbe portato il disavanzo netto di quest'anno al 3,6%, quindi avremmo avuto una procedura di infrazione immediata da Bruxelles. Sono certo legittime le posizioni, però bisogna appunto di solito anche essere un pochino seri con i numeri e tenere conto che abbiamo un vincolo di bilancio in Costituzione che dobbiamo rispettare. Davide, abbiamo scoperto tante cose durante questa conferenza stampa. Innanzitutto la copertura e il tesoretto, quindi c'è o non c'è il tesoretto? C'è. E appunto anche questo, l'intervento è un intervento di 2,180 miliardi, 2 miliardi scusami e 180 milioni per l'anno in corso, e poi avrà un onere strutturale di 500 milioni dal 2016. La copertura che è stata per ora indicata è nel cosiddetto tesoretto più altre voci, diciamo, che verranno recuperate dal gioco stock flussi o dalle pieghe di bilancio, come di solito si dice in questi casi, sull'anno venturo. Il cosiddetto tesoretto, che ricordiamolo è il differenziale tra il deficit tendenziale, cioè a legislazione invariata, e il deficit programmato per l'anno in corso, è 0,1 punti di PIL, appunto è 1,6 miliardi, per cui con quel 1,6 miliardi, se si realizzerà alla fine dell'anno, evidentemente verrà coperta questa maggior spesa imprevista che si determina per la sentenza della Corte Costituzionale per quel che riguarda la spesa previdenziale. Il decreto questa sera naturalmente non lo abbiamo ancora ricevuto, insomma, quindi non l'avete ancora analizzato. Certo. Noi presumiamo che questa, come dire, copertura con questo tesoretto verrà accompagnata da una clausola di salvaguardia, e cioè una norma che dirà, laddove non si determinasse questo margine di 1,6 miliardi, alla fine dell'esercizio reperiremo della stessa portata con interventi evidentemente di tagli di spesa. Davide, resta in collegamento con noi, perché prima abbiamo parlato delle critiche. La Federmanager è una delle associazioni che ha portato la legge Fornero innanzi alla Consulta. Noi abbiamo ospite, lo ringraziamo, Giorgio Ambrogioni, che è il presidente dell'associazione. C'è il capitolo ricorsi, io intanto lo saluto e lo ringrazio. Buonasera Ambrogioni. Buonasera a voi. Allora, abbiamo parlato delle tante critiche, la CISL parla di restituzione di un sesto degli importi dovuti. Voi vi eravate, insomma, riservati di commentare dopo il Consiglio dei Ministri. Oggi? Come tutti dicono, bisogna prima leggere il testo del provvedimento che è uscito dal Consiglio dei Ministri. Prima è avventuroso. Ma da quello che abbiamo capito non siamo per niente soddisfatti, tutt'altro. La nostra idea è che il provvedimento che il governo ha preso sia peggiorativo del provvedimento che noi abbiamo contestato della morte di Fornero. Oggi, a margine di un convegno, l'ex vicepresidente della Corte Costituzionale Enzo Kelly, in maniera molto più autorevole di me, ha detto che non gli sembra affatto che quello che il governo ha deciso risolva il problema. Per cui noi andremo avanti. Cioè saranno presentati dei nuovi ricorsi? Secondo lei ci saranno una pioggia di ricorsi? Assolutamente sì. Detto questo, noi continuiamo a insistere di aprire un confronto con il Presidente del Consiglio, che purtroppo si sottrae, per trovare soluzioni che magari risparmiano nel tempo questo debito, introducono delle gradualità. Noi ecco, ma mi perdoni se la interrompo, Ambrogioni, prima lo dicevamo con Davide Colombo del Sole 24 Ore, cioè un intervento di restituzione totale avrebbe comportato una spesa che conti pubblici italiani non si possono permettere. Quindi Convinti di questo, siamo convinti, e per questo noi siamo, come dire, orientati a fare una riflessione che trovi la soluzione che spalmi nel tempo questa restituzione, che veda una gradualità nel ritocco del dovuto che scende man mano che cresce la pensione. Ma noi dobbiamo salvaguardare un principio sacrosanto: tutte le pensioni, anche le medio-alte, hanno diritto a vedersi riconoscere un adeguamento al costo della vita, tutte, nessuna esclusa, se è vero che sono retribuzione differita, se è vero che sono pensioni che nascono da contributi versati per 40 anni ed oltre, non pensioni regalate. Questa retorica che le pensioni medio-alte debbano essere penalizzate o tossate periodicamente è inaccettabile. Quindi secondo lei, insomma, adesso si apre la pioggia di ricorsi. Davide, questa è un'altra questione molto delicata, questa della pioggia di ricorsi. Ma diciamo, vediamo quello che accadrà. Rispetto a quella considerazione che si faceva poco fa, che faceva poco fa il presidente Federmanager sull'adeguamento dovuto, effettivamente questo è un punto fondamentale, cioè anche una pensione molto importante, se non protetta dall'inflazione negli anni futuri, viene via via erosa in maniera permanente. Immaginiamoci di ritornare in un contesto macroeconomico in cui abbiamo un'inflazione vicina ma appena inferiore al 2%, come desidera la BCE, come sta cercando di riportarci, a cui a livello al quale ci sta cercando di riportare la BCE con il quantitative easing in corso. Ecco, con un'inflazione al 2% in 10 anni l'erosione monetaria è di 20 punti percentuali, quindi è pacifico che qualunque tipo di prestazione previdenziale di qualunque livello esso sia deve in qualche modo essere protetta, no? Per fasce, per scaglioni, in qualche misura. Si tratta di capire se, vedremo il decreto quando appunto verrà pubblicato, quando uscirà, se la soluzione strutturale per questo aspetto dell'indicizzazione da garantire per tutti con la progressività richiesta dalla Corte è fissato totalmente nel decreto, oppure se qualche aspetto verrà definito con la legge di stabilità che verrà presentata dopo la nota di aggiornamento al DEF, il documento di finanza pubblica che conterrà la previsione di inflazione sul 2016 che viene utilizzata proprio per fare la nuova indicizzazione. Quindi insomma dobbiamo leggere il testo per fornire alcune delle risposte, però Ambrogioni, intanto voi di Federmanager una cosa l'avete detta, questo, quello della Fornero, è il sesto blocco delle perequazioni. Che si aggiunge al fatto che io sto dando voce in questo momento a un 3% dei contributori nazionali IRPEF che contribuiscono al gettito complessivo per oltre il 30%, per cui noi il nostro dovere fiscale, sociale, solidaristico lo facciamo da sempre, per cui questa demagogia a cui assistiamo, per cui una pensione medio-alta che è stata frutto di contributi, lo ripeto fino alla noia, venga sempre colpevolizzata o fatta passare come un privilegio, veramente ci ha scocciati in maniera definitiva. È per questo che noi continuiamo a chiedere al Presidente del Consiglio, a Poletti, a Padova, di aprire una riflessione con noi, perché questa retorica è insopportabile. Viviamo in un paese in cui si parla sempre di merito, di responsabilità, di rischio. Bene, se una persona, un dirigente d'azienda che viene dal ceto medio, si è fatto da solo, con l'impegno, con i risultati, e poi deve essere colpevolizzato solo perché ha una retribuzione medio-alta e una conseguente pensione medio-alta, questo è insopportabile. Poi c'è anche un altro aspetto, molto spesso magari chi ha una pensione alta contribuisce al mantenimento, il cosiddetto welfare familiare, magari di un figlio, di un parente, insomma c'è da considerare secondo me anche questo aspetto. Davide, però c'è anche un altro aspetto del quale si parla tanto in questi giorni, molti pensionati hanno detto di voler rinunciare, ecco in questo caso… Ma in questo caso siamo alle dichiarazioni un po', diciamo, così agli intenti un po'. Gli intenti, nel senso che non mi è chiaro il percorso amministrativo per chiedere di non ricevere con l'assegno di agosto questo rimborso, questa prima parte di rimborso, questa una tantum. Non saprei come rispondere effettivamente, perché è una… Diciamo, la procedura a questo punto, al netto dei ricorsi degli esclusi, che se lo faranno vedremo che esito avranno, insomma, ma diciamo che questa in via amministrativa il decreto dispone operativamente le indicazioni a cui dovrà attenersi l'INPS per il ricalcolo delle pensioni interessate e per appunto la individuazione della somma da inserire nell'assegno di agosto. Come fare a rinunciare a quella una tantum lì, non ho idea. Certo, non è chiaro, infatti questo non è un aspetto del quale si parla ultimamente, ma è poco chiaro. Ambrogioni, l'ha sentito anche lei, no? Tanti che dicono di voler rinunciare. Ma guardi, se si potesse fare, le dico francamente che la mia categoria sarebbe pronta a farla, questa rinuncia, per alimentare un fondo che però vorremmo gestire noi, non lo Stato, per aiutare i giovani a trovare, incentivarli a trovare nuova occupazione, perché tutti i risparmi che vengono fatti sul sistema previdenziale vanno ad alimentare un buco nero della spesa pubblica improduttiva. La spesa pubblica è aumentata, non diminuisce. Io sto chiedendo, per esempio, al governo di esercitare la delega fiscale. Ci sono, attraverso sistemi di detrazioni e deduzioni, 100 e più miliardi di euro di imponibile che viene sottratto alla fiscalità generale. Sta alimentando un fiume classico di elusione. Ecco, incidiamo su queste cose, facciamo una vera spending review, facciamo una semplificazione dei centri di acquisto, i costi standard, si possono fare tante cose, invece sono sempre il bancomat delle pensioni. Questo è stucchevole. Saremo dunque a vedere. Io ringrazio il presidente di Federmanager Giorgio Ambrogioni per essere stato con noi e averci spiegato la posizione molto chiara della Federmanager, che è stata appunto una delle associazioni che ha portato la legge Fornero innanzi alla Consulta. Ringrazio Davide Colombo del Sole 24 Ore e vi ricordo, torno a ricordarvi, che domani tante delle risposte alle domande che vi state ponendo le troverete proprio sulle pagine del Sole 24 Ore. Chi avrà diritto al rimborso? Servirà a presentare una domanda, che cosa dovranno fare gli eredi e come avverrà il ricalcolo dell'assegno. Sono tutte domande a cui risponde il Sole 24 Ore in edicola domani. Adesso noi ci fermiamo per ascoltare come sarà invece il meteo della giornata di domani e poi torniamo, parliamo di incidenti stradali. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Le 21:34 minuti, abbiamo parlato di pensioni, del sì del Consiglio dei Ministri ai rimborsi parziali. Renzi, chi ci critica, votò lo stop. La missione europea antiscafisti sarà solo navale, approvato il testo, spariscono però i riferimenti alle azioni di distruzione via terra dei barconi. Berlusconi parla in un comizio, dice oramai sono fuori dalla politica. E poi Papa Francesco che si rivolge alla CEI, nessuna timidezza nel denunciare la corruzione. Adesso ci soffermiamo sulla cronaca, sulla pagina di cronaca molto brutta che si è vissuta nelle ultime ore sulle strade in Italia. C'è stata una vittima, una giovane donna di 30 anni a Palermo, nella centralissima via Libertà, al volante, un cinquantenne sotto l'effetto di droga. Non è stato purtroppo l'unico episodio della giornata di ieri, ne abbiamo parlato nel nostro GR, questo mentre domani o al massimo entro la fine della settimana in commissione giustizia al Senato dovrebbe essere licenziato il DDL sugli omicidi stradali. Noi ne parliamo di questo tema delicatissimo e purtroppo di stretta attualità con due ospiti che saluto entrambi. Giuseppe Cucca, senatore del PD, che è proprio il relatore in commissione giustizia del DDL. Buonasera. Buonasera a lei. E poi con Fabio Roia, che è magistrato a Milano, giudice e presidente di sezione delle misure di prevenzione del Tribunale di Milano, che da PM si è occupato anche delle vicende di incidenti stradali, oltre ad averli purtroppo anche vissuti personalmente. Buonasera Roia. Buonasera a tutti, buona serata. Roia, io partirei un attimo da lei, dalle normative inadeguate che sino ad oggi esistono per questi incidenti. Vogliamo ricordare oggi che cosa succede? Dunque, la normativa è strettamente adeguata, nel senso che nel 2008 è stata fatta un forte intervento di inasprimento delle pene, perché oggi pensiamo, per i fatti di cronaca, laddove c'è la violazione di una norma del codice della strada commessa per esempio da un soggetto in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, la pena può arrivare fino a 10 anni di reclusione, da 3 a 10 anni, quindi è una pena adeguata. Il vero problema che riguarda poi l'interpretazione di queste norme è un sottile profilo giuridico, se cioè un soggetto che supponiamo si mette alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o di alcol possa rispondere di omicidio colposo, quindi di quello che ho detto, invece di omicidio volontario. In questo i giudici sono abbastanza divisi sul piano interpretativo per una questione molto tecnica che riguarda l'inquadramento in colpa cosciente o dolo eventuale. Ci sono state decisioni molto dissimili fra di loro. Allora, questa normativa che dovrebbe essere discussa e probabilmente approvata dal Parlamento, della individuazione di un reato specifico, probabilmente eliminerà questa confusione dal punto di vista interpretativo, individuando una specie, una categoria di reato nuova, che ha anche un effetto, come dire, simbolico di ulteriore sensibilizzazione, perché io quello che vedo è che manca molta meno attenzione sul piano della prevenzione. Un esempio banalissimo: quando è entrata in vigore la patente a punti, nessuno parlava alla guida col telefono cellulare. Oggi basta andare in giro per qualsiasi città e si vede che tutti sono alla guida col telefono cellulare. Questo è un problema di insensibilità e di scarsa educazione civica e quindi di prevenzione anche di questi fatti. Cucca, appunto, tra domani, speriamo nella giornata di domani, ma al massimo nel fine settimana, il provvedimento dovrebbe essere licenziato in Commissione Giustizia. Sono state apportate molte modifiche, ma si va, mi sembra di capire, nella direzione giusta. Ma sì, io condivido molto il ragionamento che ha fatto il dottor Loia. L'inasprimento, tra l'altro, c'è un inasprimento di pene significativa, al di là dell'introduzione della figura specifica del reato di omicidio stradale e di lesioni personali stradali, c'è comunque un inasprimento significativo, perché, come ha detto il dottor Roia, prevedere un minimo della pena a 3 anni significa, il più delle volte, e purtroppo ne abbiamo avuto un'infinità di casi che non fanno proprio carcere, non fanno, infatti, più delle volte fanno carcere. C'è un, col nuovo provvedimento c'è un inasprimento molto significativo delle pene, e questo ovviamente contribuirà anche a un'efficacia deterrente del provvedimento stesso. E comunque il problema è quello della prevenzione, soprattutto dell'educazione. E credo che quando entrerà in vigore il nuovo provvedimento, anche di inasprimento delle pene, servirà comunque molto, ma avrà sicuramente un effetto deterrente. Insomma, bisogna pensarci 2 volte prima di mettersi alla guida in determinate condizioni, perché poi non c'è solo la figura dell'omicidio stradale conseguente alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanza stupefacente, ma ci sono anche degli altri casi che sono regolamentati in maniera molto severa e che comportano, tra l'altro, tra le altre cose, al di là della pena specifica, ci sono anche le pene accessorie che non consentiranno di fatto di riottenere la patente se non dopo un lunghissimo periodo. Cucca, sul fronte dei tempi, come siamo in commissione? Lei ha detto assolutamente bene. Abbiamo un solo problema, che siamo in attesa del parere delle commissioni competenti sugli ultimi emendamenti. Io credo che domani potremmo esitare il grosso del provvedimento, domani stesso, che è martedì. Se domani ci arriveranno i pareri della quinta commissione sui subemendamenti all'articolo 6, potremmo addirittura concludere. Credo però che tra domani e mercoledì arriveremo ad esitarlo in commissione, quindi saremo pronti per l'aula. Ecco perché, Cucca, c'è la Lega che dice che il PD su questo tema fa melina. Ma guardi, mi stupisce che la Lega possa dire una cosa di questo genere. Con la Lega c'è stato anche in commissione un confronto serrato, ma non si fa melina proprio per nulla. Il PD, come credo tutte le forze politiche, perché il tema è sentito da tutti. Ci sono soltanto delle piccole divergenze su aspetti assolutamente marginali, ma non mi stupisce che la Lega possa dire che il PD sta facendo melina, perché il PD ha lavorato in maniera assolutamente alacre, come tutti gli altri gruppi politici, per arrivare alla definizione. Abbiamo cercato di eliminare tutti quei problemi, sapete bene, si è discusso a lungo di quei problemi che potevano sollevare dei dubbi circa la questione. Sì, sull'ergastolo della patente, infatti, esattamente. Abbiamo trovato la soluzione corretta, e quindi. Francamente mi sembra ingiusto e semplicemente demagogico dire una cosa di questo genere. Dottor Roia, torno un attimo a lei. La normativa in Europa è già molto più, diciamo, pesante rispetto a quella italiana. Cioè, noi su questo eravamo molto più indietro. Cioè, in Olanda 9 anni di reclusione, in Danimarca 8 anni, in Inghilterra addirittura 14. Insomma, noi eravamo indietro. Sì, anche se, come le dicevo, astrattamente si può arrivare fino a 15 anni di reclusione quando c'è la morte o la lesione di una o più persone. Il problema poi riguarda forse noi magistrati, nel senso noi giudici. Quando poi applichiamo le normative, ovviamente c'è un problema di graduazione complessiva delle pene. Se si arriva a dare, non so, 15 o 21 anni per un omicidio volontario, poi un omicidio colposo, che è una categoria diversa, impone un trattamento sanzionatorio diverso. Per questo che io ritengo, ne ho avuto occasione anche in diversi convegni tempo fa di parlare sempre dell'introduzione di questa nuova figura, perché molte volte la legge ha un significato di educazione nei confronti dei consociati, cioè sapere che un determinato reato viene punito in maniera severa con un titolo a parte può avere un'efficacia deterrente. Per esempio, una misura accessoria molto importante e immediata potrebbe essere la confisca dell'autoveicolo di un soggetto che ne è proprietario e lo guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Cioè abbiamo bisogno anche di trattamenti sanzionatori, non necessariamente, come dire, connessi alla carcerazione, che però abbiano un'efficacia e rendano immediatamente, dispieghino il loro effetto sulla consapevolezza delle persone, perché quando uno si pone al volante in determinate condizioni oppure quando guida in maniera eccessivamente pericolosa, veramente pone in pericolo vite e molte volte le spezza e le uccide. Ecco, come è successo ieri a Palermo, perché adesso, prima di salutarvi, abbiamo purtroppo solo un paio di minuti, è il cinquantenne alla guida che ha ucciso la ragazza, la trentenne che stava andando al lavoro, la patente gli era stata ritirata. Roia. Esattamente, sì, esattamente, ed è, mi sembra che sia stato anche arrestato. Vede, questa è proprio l'insensibilità, un soggetto che guida malgrado non lo possa fare, quindi è opportuno che a questo punto si intervenga proprio con una sanzione efficace e dura per far capire che se lo dovesse fare potrebbe capitargli qualcosa di più grave sul piano del trattamento sanzionatorio di quello che probabilmente gli capiterà. Cucca, c'è stata un'altra critica ultimamente che è arrivata dall'ASASP, perché c'è di mezzo anche la patente nautica, dice che si genera confusione. Guardi, le devo dire in tutta franchezza, io stesso ho avuto moltissime perplessità su questo fatto, perché effettivamente non è che si ingeneri confusione, il problema è quello del coordinamento tra le figure. Di fatto c'è stata però un'esigenza che è stata manifestata da tanti, perché anche quel problema lì, certo, è grave altrettanto, certo. Nei mesi estivi. È vero, però io condivido il fatto che effettivamente coordinare le due figure non è una cosa semplicissima e ci ha posto diversi problemi. Però a questo punto io credo che il problema si possa considerare superato. Certo, io ringrazio il dottor Roia, Giuseppe Cucca, termina qui l'appuntamento di oggi. Vi ricordo adesso la nostra rubrica che ci riporta sulle strade, dove speriamo gli incidenti ce ne siano sempre di meno, hashtag autotrasporto. Per questa puntata è tutto, ci sentiamo poi alle 22 col GR.